Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jannati wan nas. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul wallahu ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Allahumma salli ala Muhammadin perfume di apocalipsi, mentre stringo fango tra le mie mani e lo spirito langue, sognando terre promesse come ebrei. Wow, doveva essere terra promessa, come è stato possibile invece morire sotto una mitragliatrice? Scambiato io come figlio di una meretrice, lasciate stare i nostri figli, vorranno madri disperate. Si piange terre di figli massacrati per guerre di un potere immaginario, monetizzato col tempo dal carnefice, bocca asciutta il cane operaio. Il cane operaio, il fango di una vita su un binario che porta a nulla come da nulla si nasce, la reincarnazione di una mantide religiosa, preghiera sul sacro diario, scossa nella morsa del ragno, rimane sindone alla fatica faticosa di un sudario. Partita irta le nostre vite, rivelate da parole astute, ricchezza dell'arte, povertà del denaro, spesso litigano e si divorano in questo mondo amaro. Ricchezza dell'arte e povertà del denaro, spesso si litigano in questo mondo amaro. Si piange terre di figli massacrati per guerre di un potere immaginario, monetizzato col tempo dal carnefice, bocca asciutta il cane operaio. Il cane operaio. I nostri carnefici arricchiti ora, le nostre madri ditati come meretrici ieri, ma ora la verità risuona come un racconto di malattia vera. I nostri carnefici arricchiti ora, le nostre madri ditati come meretrici ieri, ma ora la verità risuona come racconto di malattia vera, di malattia vera. Le loro lame sono parole maldette, buffonate, risate davanti alle porte del sangue, rivoli rossi come pioggia sui tetti, ambigui interessi intorno alla penna degli artisti, i cui mondi creati vengono contesi, lo chiamano paradiso, ma è la danza dei macellai e si va in down.